24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Se il sindaco e l'amministrazione, che hanno dei problemi oggettivi, poveretti, perché lì ci sono tre che sono gli arresti, se si guardino allo specchio, decidano che cosa fare, il governo è pronto a fare la storia. Oh, c'è il giubileo quest'anno a Roma, c'è tutto il mondo che la guarda. La vogliamo smettere di stare a discutere dalla mattina alla sera di questioni che interessano gli addetti ai lavori? Chi è in grado di governare, governi. Se non è in grado di governare, si va a casa. Subito. Ecco, dopo Renzi da Vespa a Porta a Porta, sembrava che il sindaco di Roma Marino avesse ormai le ore contate, che la sua permanenza alla guida della capitale fosse agli sgoccioli. Nel frattempo anche Corriere della Sera, attraverso due firme di punta come Rizzo e Stella, scopre, come continua a fare anche oggi, le difficoltà di vivere a Roma tra topi e buche. Poi però è arrivato il presidente del PD Orfini a spiegarci che no, il sindaco deve restare e che lui con il segretario Renzi ogni tanto discute e non sono d'accordo. Ho letto la frase di Renzi come uno stimolo ad andare avanti, a fare meglio, a fare di più, faremo meglio e faremo di più. Ecco, ma la cosa più chiara l'ha detta proprio lui, il sindaco Marino, ieri. Ma io non ho mai cambiato idea. Io sono qua per stare fino al 2023. Dunque, la questione sembrava chiusa. Oggi anche l'ex premier Massimo D'Alema interviene per dire che il sindaco Marino o lo si sostiene o si va all'elezione. Lasciarlo a se stesso non è una buona soluzione. E allora? Partita chiusa? Marino batte Renzi? Vedremo. Personalmente credo che ne vedremo ancora altre puntate di questa novela, ma di questa telenovela. Però anche Napoli è un rebus. De Luca, proclamato presidente, non si presenta. Caldoro non c'è più, ma De Luca non si presenta. Chi firmerà la posta ordinaria? Mario, che dici? Chi la firma? Nessuno di questi, scusate. E siccome non so se ridere o se piangere più a sentire appunto questo riassuntino, prendiamola dal punto di vista, diciamo, comico. È chiaro che c'è un problema di fiducia del segretario del partito Renzi nei confronti di Marino. È altrettanto chiaro che questa diciamo scarsa fiducia o poca fiducia è stata estesa anche al lavoro di Orfini come commissario a Roma, non come presidente del partito, perché è commissario da gennaio, se non sbaglio. Ed è altrettanto chiaro che il PD non può votare adesso, no? Perché se no l'avrebbero già fatto. Non può votare perché non è organizzato, non ha via d'uscita in questo senso. Dopodiché il disastro di Roma, insomma, è sotto gli occhi di tutti, lo conosciamo, non voglio dire, c'è un buco da potenziare di altri 350 milioni nel bilancio. Extra bilancio, ce l'ha detto no? Quindi, l'altro giorno Marchini. Insomma, io non ho molto altro da aggiungere, ci abito a Roma. Quindi. Vedremo come va a finire. Tu, Pietrangelo, che dici? Che mancano 350 milioni a Roma, ed è un fatto, però c'è anche un dato politico, e cioè che quando Matteo Renzi con un solo tweet determina le dimissioni del governo di Enrico Letta, dopo aver fatto quella dichiarazione a Porta, deve necessariamente attendersi un risultato. La dichiarazione contro Marino inequivocabilmente dovrà portare alle dimissioni di Ignazio Marino, il quale invece rilancia, si prenota per la data. Quindi dice una debolezza oggettiva. Ma ben più di una debolezza oggettiva. Se Marino non se ne va, significa che Renzi ha perso tutta la credibilità, e il famoso tocco magico ormai è diventato qualcosa di simile alla patente. Ma vedremo allora come finisce, perché certamente è una questione, è un po' di vita e di morte, diciamo, di uno dei due da qualche parte. Allora, il PD avrà, se le cose continuano ad andare così, avrà danni grossi dal punto di vista dell'immagine e dei consensi, secondo me, questo è chiaro. Vabbè, vedremo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Salve, che prendete? Io l'insalata dello chef, ma con olio e aceto a parte, poi la torta di mele. Ma la torta la voglio riscaldata e non ci voglio il gelato sopra, lo voglio al lato. E che sia di fragole e non di crema, se possibile. Se no, niente gelato, solo panna. Ma panna vera, se è in lattina, allora niente. I like potato. like tomato. Centrifuga di piselli e carote, pane di camu. Io la spazzatura non la mangio. Tomato, let's call the whole thing. Mi piace mangiare bene, d'accordo? E le cose buone sono difficili da trovare. Qua è tutto buonissimo, scelga lei. Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera? Insalatina leggera. Mi dispiace perché i funghi fritti fritti fritti erano veramente eccezionali. Domenica arriva l'estate, allora parliamo un pochino di diete per alleggerire. Natale Giunta, chef siciliano, titolare di ristorante a Palermo, a Milano, spesso ospite della prova del cuoco della Clerici, rappresenta la Sicilia all'Expo. Ecco, all'Expo è arrivata anche Michelle Obama, l'abbiamo visto, che dice che la dieta mediterranea è la migliore. Allora Giunta, abbiamo vinto? Certo, assolutamente sì. Per fortuna abbiamo avuto quella sua conferma, ma già eravamo... Lo sapevamo già da soli. Assolutamente. Senta, ma la sua è una cucina siciliana rivisitata in chiave moderna, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che la cucina siciliana, quella storica, dove sono passate tantissime dominazioni, hanno lasciato tanto e noi cuochi giovani, talenti giovani, stiamo cercando di alleggerirla. Ecco, alleggerirla, Giunta, per capirci, alleggerirla da frittura, aglio, da frittura, cipolla in eccesso, aglio, questo? Aglio, cipolla, bravissimo. Ma poi la cucina siciliana cosa resta? Resta tanto, restano gli agrumi, resta il mare, resta la ricotta meravigliosa, restano i dolci, resta un mondo di spezie, resta il profumo di questa terra che dove vai ha la sua originalità. Ma è vero, isole. È vero che lei utilizza solo prodotti nati in Sicilia? Assolutamente sì. Perché? Prodotti nati in Sicilia, e quando vado in giro per il mondo cerco di portarmeli sempre, perché la mia storia nasce qui e io nasco con questi prodotti e cerco di valorizzare, dai capperi di Pantelleria all'uva sultanina, agli agrumi di Sicilia, anche i capperi di Filicudi sono buonissimi, ai capperi di Filicudi. Diciamo che le isole hanno dato e danno, continuano a dare dei prodotti meravigliosi e secondo me unici, perché quella terra, il sole che gli batte, il mare vicino, l'Etna, possiamo parlare di Sicilia. Vabbè, adesso facciamo lo spot. Senta, ma c'è davvero una differenza così grande, per esempio, tra i pomodori siciliani e quelli calabresi? Secondo me sì, non togliendo nulla a quelli calabresi, attenzione, perché dobbiamo parlare sempre che ogni terra ha dato i suoi prodotti e noi abbiamo i nostri prodotti e cerchiamo di valorizzare il pomodorino di Pachino o il siccagno che è il nostro siciliano, è un pomodoro che gli manca l'acqua, non gli danno l'acqua e dà un sapore unico, ma viene da questa terra. Senta, quindi... Giunta, l'alimentazione adesso va di moda, con chef, pasticcere, sempre più star, sempre in televisione, ma quanto è cambiato il vostro mestiere? Aiuta tutto questo glamour intorno alla cucina? Ma quanto è cambiato? Io mi ricordo questo mestiere, l'ho iniziato a fare che avevo 14-15 anni, quando ho fatto la prima stagione di lavoro mio padre mi disse: vedi quanto ci dobbiamo dare noi per iniziare a lavorare, per capire quanto ti terranno là dentro. Però fin da subito la passione, nessuno si aspettava che i pochi diventavano delle star in televisione o firmavano gli autografi o si facevano le fotografie. Sicuramente aiuta. Sta dando tanto, ci dà tanto, però non dobbiamo dimenticare che la cucina nasce in un ristorante e nasce davanti ai fornelli, non nasce solo in televisione. Quella è un'altra parte, è un'altra e dico cosa. Sempre che quando finiamo di fare televisione si comincia a cucinare, io sono il primo che fa televisione, ma la sera quando finisce di fare televisione se ne va al ristorante o nei suoi eventi e se ne va a lavorare. Senta Giunta, ma lei si occupa anche di catering di matrimoni, quanto si tiene conto della dieta oramai nella scelta anche dei menù del matrimonio? Si tiene tanto e si tiene soprattutto, io non mi occupo solo di matrimonio, mi occupo di eventi, però oggi si comincia a guardare anche nel mondo degli eventi e dei matrimoni di un percorso di salute, di dieta. E di un percorso soprattutto di qualità. Insomma, qualità invece che quantità, ma secondo la sua esperienza, la crisi economica ha intaccato il business della ristorazione o no? Nel sud Italia tanto, sì. Io penso che l'Italia è divisa in due, da Milano in su, pure che Milano c'è stata la crisi, ma oggi grazie all'Expo e grazie a tante cose stanno superando questa parte. Ecco, ma i dessert per esempio sono rimasti gli stessi o anche qui c'è un orientamento dietetico? Ma io dico sempre, questa è una cosa che quando qualcuno mi dice un dolce leggero, dico che il dolce leggero non esiste. Io non sono per i dolci leggeri, io sono o per i dolci o senza dolci. Cioè, è meglio mangiarne poco, ma buono. No, lo zucchero, la ricotta, la ricotta, la cioccolata e la cioccolata. Non ci inventiamo nulla, perché là andiamo a distruggere un bel pensiero e non dobbiamo. Senta Giunta, lei rappresenta la cucina siciliana all'Expo di Milano. Ma il padiglione dell'Expo esiste ancora? C'è ancora? Il padiglione Sicilia? Sì. Certo. Noi siamo all'interno di un cluster, che è il cluster biomediterraneo, dove all'interno c'è un raggruppamento di paesi che affacciano tutti nel Mediterraneo. Se ne sono dette di cose brutte sulla Sicilia, sì, ma sono purtroppo, io dico una cosa diversa, io dico siciliani contro siciliani, italiani contro italiani. Voglio spendere 30 secondi per dirle un mio pensiero. Sì, rapidamente. Prima di aprire Expo pensavo che era un disastro, invece Expo è una cosa meravigliosa. Peccato che gli italiani dicono tutte, parlano male delle nostre cose, ma quella è colpa dell'italiano. È fatto così. Io parlo bene della mia terra e dico sempre che la mia terra è una terra unica, non dico che è una terra brutta. Dobbiamo cercare di mandare un messaggio che è quello positivo. Positivo, non c'è dubbio. Ma lei cosa fa in concreto dentro il padiglione dell'Expo? Io cucino quando vengo invitato, che è spessissimo, all'interno del cluster biomediterraneo, faccio il cooking show, preparo gli eventi. Ma viene tanta gente a mangiare lì? Viene abbastanza gente. L'Expo è pieno, ci saranno 30.000 visitatori al giorno, 30-40.000, da noi passeranno una migliaia di persone al giorno. Senta, ma qual è il piatto che la rappresenta di più? Il piatto che mi rappresenta, mi rappresenta di più. No, ma il piatto siciliano che la rappresenta di più. Io amo i vecchi legumi che non si fanno più, continuo a fare il macco di fave, il macco di ceci. Questi sono i piatti che rivisito, gli metto gli scampi dentro, l'olio al carbone, mi invento delle cose dove vado a creare quei piatti storici dove oggi quasi si sono dimenticati. Ecco, giovani come me le hanno dimenticati. Ecco, giunta un'ultimissima cosa, siamo d'estate, una ricetta semplice e leggera per l'estate. Una ricetta semplice e leggera: un piatto di pasta leggero, un limone, un pezzo di uovo di tonno, quindi la bottarga del tonno, padellino antiaderente, olio d'oliva, pizzico di peperoncino o pepe nero schiacciato, buccia di limone, spegniamo tutto, buttiamo giù due fili di pasta, acqua di cottura, amalgamiamo bene il tutto, bottarga grattugiata, filo di limone, un pizzico di zenzero per esaltare questo piatto. Leggero forse, buonissimo, di sicuro, insomma. Comunque, ha una l'appetito. Ha una concentrazione a volte eccessiva. Sul cibo corrisponde naturalmente una proliferazione di diete di ogni tipo, dalla Duncan, quella della forchetta, chi più ne ha più ne metta. Giorgio Calabrese è un medico nutrizionista, docente universitario di alimentazione, dietologo ufficiale della Juventus. Con il suo ultimo libro, Dimagrire con la dieta mediterranea, si è schierato a favore di una dieta che non elimini nessun cibo. Ecco, professor Calabrese, ma poi i chili si perdono lo stesso? Si perdono, perché vede, io quest'anno faccio quasi 40 anni in questa professione, e se lei... Che è stato anche tanto, insomma, il Mammarai è autorevolissimo elemento, sa che in tutte le trasmissioni da, io sono da 34 anni lo so no, sempre detto 34 anni fa e 10 giorni fa e 10 minuti fa, la dieta mediterranea è l'unica dieta che ti permette di dimagrire in piena salute. Perché? Le spiego, il cibo deve essere, che noi introduciamo, deve essere di varia qualità, l'uomo è onnivoro. La logica delle diete iperproteiche che fanno perdere subito peso è la logica di chi agisce sulla massa muscolare e sull'acqua. La dieta mediterranea agisce invece sul minor assorbimento di grassi e di zuccheri che vengono introdotti assieme a tanta fibra vegetale, per cui le verdure, la frutta, i legumi fondamentali, i cereali, che hanno questa fibra che per darle un'immagine è come se noi nell'intestino, all'interno dove si assorbono tutti i nutrienti, mettessimo un po' di carta da forno che è bucherellata, che invece di far assorbire i 100 che sono entrati, dei 100 ne fa assorbire 20. Quindi pasta e pane tranquillamente? Assolutamente sì. Ah. Io faccio le mie diete cliniche per malati, per i trapianti. Io sono in questo momento in studio medico a visitare e scrivo quelle cose per cui i pazienti poi gli facciamo fare gli esami prima, durante e dopo. Insomma, i chili si perdono? Si perdono tranquillamente. Senta, ma i giocatori della Juve che dieta fa seguire? Da sempre hanno seguito la dieta mediterranea, poi hanno delle integrazioni di alcune sostanze sempre alimentari che aumentano a seconda del ruolo. Ma mi faccia, a seconda del ruolo cambia la dieta? Eh certo, scusi, perché se lei fa il portiere e uno sta sempre come il nostro, fermo, avendo una grande difesa, il nostro cosa fa? Vede una palla ogni 20 minuti. Certo. Magari il portiere e che cosa mangia? Che cosa mangia lui? Ecco, lui deve... Buffon cosa mangia? Io parlo del portiere, non parlo di Buffon. Vabbè, parlo parliamo del portiere, va bene. Ecco, del portiere e di quelli che fanno i centravanti fissi davanti alla porta. Mi dica cosa mangia il portiere. Ecco, questi devono prendere sempre, sempre la giusta dose di carboidrati che va dal 55-65% e aumentano abbastanza le proteine perché devono dare... Quindi pesce, carne, bianca e rossa, uova, latticini, latte. Questi devono avere i muscoli molto pronti. Ma chi mangia di più nella squadra? Allora, diciamo così, qual è il ruolo che fa mangiare di più? Ah, il mediano di spinta, il Vidal. Quelli che corrono tanto, insomma. Sono quelli che sprecano tanto, che fanno tanti chilometri, che sono misti, sono aerobici e anaerobici. Anaerobici perché fanno gli scatti e aerobici perché corrono molto, e questi devono avere più carboidrati e anche una certa quota di grassi, ma sempre di origine tipo lo stesso. Senta, professor Calabrese, ma l'eccessiva attenzione alla scelta del cibo, alle sue caratteristiche, si chiama ortoressia, è una patologia vera e propria? Sì, perché è una come dire, una alterazione della sensorialità, un'alterazione del giudizio del proprio modo di nutrirsi, perché mentre lei, io e milioni di nostri radioascoltatori al mattino pensano ora mangio questo, oggi faccio quell'altra cosa, loro partono dal concetto deve avere le mani sempre pulitissime, deve essere quel cibo, deve essere da dove deriva, chi lo fa, come l'hanno mantenuto, come l'hanno messo dentro il contenitore. Vabbè, perdono, esagerato. È un'esagerazione, ma è patologico. È patologico. Sì, ma lei sostiene, lei professore, sostiene anche che il futuro è il bell'essere. Sì. Che cos'è il bell'essere? Il bell'essere è l'insieme di una buona nutrizione, saggia, sana, gustosa, ma sempre attenta alla giusta dose tra grassi, zuccheri e proteine, che ti danno una pelle più bella, ma una cosa ancora più importante, ti danno il buon umore, che è quello che ti fa superare i momenti di crisi come negli ultimi 10 anni abbiamo avuto in Italia. Ma come si valuta quando e quanto è veramente necessario mettersi a dieta prima che sia tardi? Io dico c'è una classe medica in Italia che funziona bene, e quando vedono, per dire, partiamo da quel piccolo bambino che ha 8 anni, 10 anni, ha già 5 kg in più, non si può aspettare, bisogna andare dal pediatra. Sì. Se vediamo una ragazza di 20 anni che ha 5-7 kg in più, troppo. Vede qual è il problema. Noi partiamo dal sovrappeso, per farle un esempio numerico, noi abbiamo il problema in Italia che abbiamo il 30% di sovrappesi e il 10% di obesi. Sì. Quindi significa che già quel sovrappeso è prodromico. Va affrontato. Beh, il sovrappeso uno se lo capisce da solo, diciamo. Beh, guardi, io dico sempre che quando sei dici a fine 25 anni vai a comprare un abito, parliamo soprattutto delle nostre signore che sono più attente, ci sono 42 d'Italia, e poi incominci a vedere che il 44 ti tira un po', e quando vedi che non ti entra più, sono già 6 kg in più, che ti stanno dicendo se non ti dai da fare andrai a fare un disastro. Senta, ma quali sono i tempi giusti per un dimagrimento equilibrato? 2 kg al mese, 3, quanti? Certo, io le dico che sono da mezzo chilo a un chilo alla settimana, quindi da 2 a 4 kg al mese, dipende dal peso che uno ha e dal metabolismo, per cui se uno deve perdere 20 kg, 20 kg si perdono almeno in 7 mesi, almeno. Sì. E da 7 mesi a 1 anno e mezzo. Certo. Senta, ma in che misura mangiare correttamente aiuta a evitare le malattie? Sa che cos'è? La malattia è un'alterazione della formazione delle varie cellule, le quali cellule hanno una centrale che ci gestisce, che è il DNA. Questo DNA è una cosa molto piccola, ha 4 gradini, un po' di zuccheri, e poi ha la capacità di cambiare con gli aminoacidi che la formano. Se noi non stiamo attenti a mantenere la fotocopia sempre giusta, quando le fotocopie diventano sbagliate, prima sono sindromi, poi sono malattie, poi e alla fine possono essere tumori. Senta, un'ultima cosa, professor Calabrese. Studi recenti sembrano confermare quello che è abbastanza intuitivo, che mangiare poco allunga la vita, è vero? Sì, se si mangia bene però, perché altrimenti tutti gli anoressici dovrebbero essere longevi. Ah, certo. E allora il discorso poco è certo. E bene, mangiare poco e bene. Mangiare poco e di tutto. Un bicchiere di vino? Certo. Mario, beh, quest'estate dieta, eh? Chi? Noi due per diventare come Pietrangelo. Io non ci penso neanche un po'. Ah no, tu ti tieni la tua ciccia? Absolutely. Sì, ah, ti piace? Sì, sì. Ti senti bene là dentro? Mi sento benissimo. Non ti disturba? No, mentalmente. Per non vorresti essere come Pietrangelo? Ma neanche un po'. Il mio quintale me lo tengo felicemente, mangerò, farò le mie cose. Tu non sei mai stato grasso, Pietrangelo? Mai? Non lo so, non mi pare. No, che ne so, magari sai, da ragazzino. Poi io ogni tanto faccio un po' di palestra e dimagrisco, poi riprendo. Sì. Non c'ho voglia di, senti, vabbè, la vita è già dura così. Vabbè, basta. Dopo l'estate vedremo com'è andata. Adesso è già pieno Ramadan. Cioè, per tu adesso, tu, per carità, tu sei in digiuno. Sparisce, tra un po' sparisce Pietrangelo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. C'è un settore dell'industria italiana che fa muovere l'economia reale, trasporta la ricchezza, si muove al ritmo del paese. È il settore dell'autotrasporto, che fa arrivare nelle imprese, nei negozi, nelle case, tutto ciò che quotidianamente utilizziamo. Radio 24 vi accompagna in un percorso per conoscerlo meglio. Nei numeri, nei problemi, nelle opportunità, nelle imprese. Gli orari degli appuntamenti su radio24.it. Buongiorno, sono Martin Castrogiovanni e vorrei un furgone Peugeot. C'è il nuovo Partner, con ben 4 metri cubi di carico e lunghezza utile superiore a 3 metri. Ragazzi, tutti dentro! Piano però! Nuovo Peugeot Partner, con motori blu HD Euro 6, sensori Bluetooth, touchscreen e navigatore. A 320 euro al mese per 3 anni, con noleggio all'inclusive. In più, manutenzione ed assistenza garantite Peugeot. Scade il 30 giugno, salvo approvazione PSA Renting Italia. Fogli informativi in concessionaria o su peugeotprofessional.it. Un politico corrotto. Un brutale omicidio. Un'indagine dai risvolti oscuri. Arriva la seconda stagione di True Detective. Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Taylor Kitsch e una storia ancora più avvincente. Da lunedì 22 giugno in contemporanea con gli USA solo su Sky Atlantic HD e con la funzione registra serie di MySky. Registri in automatico tutte le tue serie preferite e non ti perdi neanche una puntata. Sky Atlantic HD. Grandi serie, grandi storie. Traffico News. L'imprevista inversione dei BTP sta causando rallentamenti da questa mattina e si segnalano code a tratti sugli spread dell'Eurozona. Il Dow Jones procede scorrevole, mentre per Hong Kong si segnalano deviazioni. Si consiglia di mettersi in marcia solo con Bink. Con Bink Bank, ogni giorno è un buon giorno per fare trading. Per i tuoi investimenti, scegli lo specialista del trading online. Apri subito il conto. Messaggio pubblicitario. Fogli informativi su bink.it o chiama l'800 90 58 45. GIS, giornate italiane del sollevamento. L'unico evento italiano dedicato agli utilizzatori di macchine e attrezzature per il sollevamento, la movimentazione industriale e portuale e i trasporti eccezionali. La quinta edizione a Piacenza dal 1 al 3 ottobre. Per info sollevare.it. Ciao, sono Laura Chiatti. Sapete, a me le altre acque non fanno effetto. Invece Rocchetta, acqua della salute, mi depura e mi fa fare tanta plin plin. Puliti dentro e belli fuori. Io lo chiamo effetto Rocchetta, perché Rocchetta vale di più. Plin plin. Agenti.it presenta agenti di commercio alla cacciatora. Prendere il listino prodotti, aggiungere strategie, budget e portafoglio clienti anche potenziali. Cuocere a target lento, fare un giro visite mescolando premi, sconti e promozioni, senza esagerare per non bruciare l'utile. Voilà, gli agenti di commercio sono serviti. Agenti.it, la ricetta vincente per la tua azienda. Dolori muscolari, articolari, cervicali, stiramenti, strappi, contusioni, botte, distorsioni. Da oggi, per sciogliere questo scioglilingua, puoi scegliere Dicloreum Dolore, in bustine da sciogliere in acqua. Agisce rapidamente contro infiammazione e dolore. Dicloreum Dolore, per tornare in azione. È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Suona l'allarme di casa! Corro subito a vedere! Ti accompagno. Che sarà successo? Allarme, furto, zona ingresso. No, suona anche il tuo allarme. Dobbiamo correre anche a casa tua. Tranquilla, io ho Combibox e posso controllare dal mio telefonino quello che è successo. Combibox, l'ideatore del primo antifurto GSM, crea sistemi di allarme professionali per controllare casa e ufficio dal telefonino. Vai su combibox.it. Guarda anche tu sul mio telefonino. È Fuffi, il gatto del vicino. Perché solo a Natale? Il panettone va mangiato tutto l'anno. Vieni a degustare i migliori panettoni artigianali. Il 27 e 28 giugno a Milano, presso la sede del gruppo 24 ore, incontrerai chef e pasticceri provenienti da tutta Italia e potrai portare i tuoi bambini ai laboratori creativi. In più, domenica 28, la diretta del Gastronauta, condotta da Davide Paolini. Ingresso gratuito con registrazione su www.eventi.ilsole24ore.com/panettone. Unieuro. Fino al 2 luglio ogni 100 euro di spesa Unieuro ci regala 20 euro in buoni sconto. E con quelli ad agosto mi compro tutto quello che voglio. Che vuoi? Ai, che vogliamo, amore? Dettagli, esclusioni e negozi aderenti su unieuro.it. Unieuro. Batte forte. Sempre. Lo scorso anno oltre 190.000 contribuenti hanno scelto di dare il proprio sostegno alla ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Con il tuo semplice gesto potremo raggiungere importantissimi traguardi nella ricerca, nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. Nella dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a favore dell'AIL. Riporta nell'apposito spazio il codice fiscale AIL 80 10 239 05 82. Info www.ail.it. Mix 24. Senza te, senza più radici ormai. Tanti giorni in tasca, tutti lì da spendere. Perché? Un poco di paura che precede l'avventura, eppure io. E allora, Pietrangelo? E allora, ancora una volta, una camminata. Sempre a piedi, la giornata lo impone e mi ha divertito osservare i passanti, guardare e fabbricare delle ipotesi, farne delle storie e quindi mettere da parte anche la timidezza e con gli sguardi, proprio quelli da un Archimede, architettare grovigli, grovigli che inevitabilmente diventano sentimentali. Per esempio, all'incrocio tra via del Viminale e via Nazionale ho visto un uomo e una donna, lei alla guida, dentro un Audi grigia, impegnati a ridere. Però lei alla guida si divertiva da matti a prendere a ceffoni lui. E lui, a malapena in grado di difendersi, alzava le mani per proteggersi dalla gragnuola di colpi, però rideva. Ridevano prendendosi a legnate, anzi era lui che proprio ne prendeva tantissime, e c'era tutto un gioco di rabbiosa felicità, quella di lei e di lui, e poi in lui c'era l'orgoglio e la dignità, come in questa canzone di Lucio Battisti, di una litigata complice e amorosa, che è quella di due che si amano più che di due innamorati. Di solito gli innamorati stanno inebetiti, invece chi si ama si prende a legnate. L'Audi si è schiantata contro il muro. L'Audi avanzava, no, da sola. Era un Audi, sì, non sì. Era una Fiat. Beh, certo, quindi anche eventualmente contro il muro continuava a camminare. Ad andare. Certo, me come no, me lo immagino. Mario, nella tua pentola le bolle di oggi. Ci siamo. Allora vai. Vai. Sono sull'Eurovisione, no, perché questa piace. Cosa è diventata fantastica. È la allora, nostra sigla per l'Europa. È la nostra cara Europa, che insomma, che succede, Giovanni? Succede che qua devono tirar fuori un piano B per il Grexit. Un bel piano B. Perché il governo Tsipras, adesso visto che parlava, diceva sono fiducioso su un accordo, ma sai, tutto quello che dicono i greci va preso per quello che è in questo momento. Quindi, però, anche quello che dicono i tedeschi. Assolutamente, sì, sono d'accordo con te, bisogna... Alla fine di questa storia si faranno i conti tra creditori e debitori e si vedranno gli errori da una parte e dall'altra. Intanto piano B. Piano B che per ora però non è chiarito, non si vede. Tsipras sembra disposto comunque a pagare un prezzo alto, è ancora più grande di quanto forse immaginino i commissari dell'Unione Europea, i capi di Stato e così via, pur di non rimborsare il debito alle condizioni che chiede la Germania. E allora, ci sarà un vertice straordinario dei capi di Stato, come sapete, lunedì, devono elaborare appunto un'uscita onorevole per tutti in ogni caso, quindi un'uscita controllata per quanto si possa controllare della Grecia, oppure una sua permanenza nel club dell'euro. I mercati, nonostante abbiano già messo in conto una parte dello shock, comunque insomma non sono tranquilli, anzi tutti pensano che qualcosa accadrà di non proprio carino sul corso dei listini. Stamattina c'era un pezzo sul Financial Times che era interessante perché dà l'idea della situazione, che diceva che i giovani greci disoccupati preferiscono il caos all'austerità, in fondo non hanno lavoro e non hanno niente da perdere. Quindi se questo è il clima... E questo forse è proprio quello che non è ben percepito, esatto, dagli eurocrati, penso, di Bruxelles. Penso anch'io la stessa cosa, cioè che la sfida produce delle scelte drammatiche. La sfida perduta dell'eurozona è quella sul lavoro, mi pare abbastanza chiaro. Quindi cioè, c'è tutto il sud dell'Europa che è senza lavoro in quantità industriali, è il caso di dire. È vero che non sono state fatte riforme, insomma, sì, vabbè, però il lavoro non c'è, il lavoro non c'è alla fine, quindi sai, vabbè. La gente Salamino lo vedi, ecco Marino, la sacra gente lua. Lo vedi? Ecco Marino, ma la domanda resta appesa. Proseguo sul tuo editoriale di prima, Giovanni, e quindi pongo la domanda: riuscirà Ignazio Marino, incredibilmente sindaco di Roma, ad arrivare con la fascia tricolore da primo cittadino alla sagra dell'uva? Insomma, immagino non tanto il panettone, ma proprio il vino nuovo, lo assaggerà mai? Allora, sappiamo tutto, sappiamo che gli è arrivata una certa comunicazione, però lui punta i piedi, ma io ho scoperto perché punta i piedi. Lui si fa forte della fiducia e della popolarità di cui gode, perché se solo si votasse, e io ho a disposizione un sondaggio segreto e li sto leggendo, risulterebbe comunque primo. Perché l'indagine è stata svolta mettendo in gara i possibili avversari e perciò Marino, a dispetto di Renzi, risulterebbe il più votato. Per esempio risulterebbe il più votato in una gara a sinistra con Alessandra Moretti, perché comunque deve essere accontentata dopo l'esito in Veneto, e candidata a Roma comunque farebbe vincere Marino, ma forse no, perché Moretti vincerebbe lo stesso. Perché il nostro Marino, secondo questo sondaggio, risulta primo anche in una gara con il senatore Razzi, perché comunque deve avere una contrapposizione anche, diciamo, d'aria. Un certo livello. Però forse Razzi vincerebbe. E poi, sorpresa di questo sondaggio, Marino risulta primo in una sfida con la destra se la destra pervicacemente si presentasse con Gianni Alemanno. Che poi Gianni Alemanno in un certo senso è il primo sponsor, è il motivo dei motivi per cui tutti poi hanno votato Marino. E però no, la situazione è tale che oggi perfino se si candidasse Alemanno vincerebbe su Marino. Ora diciamo, sì, vincerebbe. L'unico a non stare tranquillo a questo punto, sapete chi è? Chi è? È proprio Matteo Renzi. Per i motivi che hai, per i motivi che hai elencato, perché comunque a Roma c'ha Marino, in Campania c'ha De Luca, in Calabria ho scoperto che la giunta regionale in Calabria da un anno è riuscita a nominare solo 3 assessori. Tutto è bloccato. In Sicilia c'è Crocetta e, a proposito di Sicilia, domani a Catania arriverà il ministro delle infrastrutture, Graziano Del Rio. E che succede? 3 mesi fa, dopo il crollo del ponte Imera, dichiarò che in 3 mesi sarebbe stata realizzata una bretella per collegare l'autostrada Palermo-Catania. I 3 mesi sono arrivati, una pala e un piccone non si sono visti e il ministro ha la faccia di presentarsi domani in Sicilia senza bretella, dove ancora stiamo tutti con una mano davanti e una di dietro e con i salamini in volo. Dai, ha fatto la legge sugli appalti ieri, è passata al Senato, insomma. Fatta la legge, arriva la bretella. Devi avere anche la cintura, tu la sai la storia della cintura. No, ma fammi la bolla, va Mario. When I was young, it seemed that life was so wonderful. Non volevo proprio interromperlo subito perché questo è un pezzo leggendario, con un testo meraviglioso dei Supertramp. Signori, che dire, l'aria che tira, sai che aria tira, Giovanni? Che aria tira? De destra. In ogni caso il ciclo è contro chi governa, il ciclo europeo. Immigrazione e disoccupazione sono i temi ormai sui quali si giocano le partite elettorali. A torto o a ragione, questo in questo momento ha poca importanza, diciamo. In Danimarca, avete visto anche dai GR, ha vinto la destra di Rasmussen, che ha battuto la premier uscente, la Schmidt, e occhio perché questo partito del popolo danese, che è un partito fortemente anti-immigrazione, ha preso il 21%, che sono numeri che secondo me dovrebbero far immaginare ai commissari europei. Uno dirà la Danimarca è piccola, vabbè, la Danimarca è piccola, anche la Grecia è piccola, anche la Grecia è piccola, tutti piccoli, grande solo la Germania. Secondo me serve un grande correttivo in alcune scelte che sono state fatte. È vero che c'è stata stabilità, l'Europa veniva da guerre colossali e quindi talmente sanguinose che tutti avevano paura, però insomma, no? Certo. C'è da ripensare qualcosa. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, gli sms, pubblicità. Mix 24. Mario. Sì. Antonio ci scrive: ho letto che Allianz tedesca ha appena acquistato altri 200 milioni di bond greci. Non è che la Grexit è una bufala, eh? Dunque, allora, ci sono delle operazioni, non so esattamente, dovrei vedere cosa nel dettaglio Allianz. È una provocazione, sì, per... ci sono però ci sono i cosiddetti vulture funds, che sono i fondi avvoltoi, sono chiamati così perché fanno operazioni altamente speculative, che scommettono, comprando quindi titoli che sono a fortissimo rischio in questo momento, sulla Grecia, perché scommettono su un salvataggio all'ultimo minuto e quindi poi su un apprezzamento improvviso di quegli asset. Uno può comprare, che ne so, un albergo pensando che non varrà niente, certo, e invece fa l'affare della vita. Vabbè, oggi dire, come tutti i venerdì, è arrivato il momento della posta del cuore. Se avete voglia di sfogarvi e raccontarci le vostre storie, scrivete a mix24@radio24.it. Sara. Prossimo mi sposo e tra i tanti riti preparatori delle nozze c'è stato anche l'addio al nubilato organizzato dalle mie amiche. Un weekend fuori in cui, dopo 6 anni di fidanzamento, per la prima volta ho tradito il mio ragazzo. La cosa assurda è che quel tipo incontrato in discoteca non mi piaceva neanche tanto, ma il fascino della conquista, quell'adrenalina del proibito, non ho saputo resistere. La verità è che mi sono divertita. Adesso sento fortissima l'esigenza di confessare tutto, ma ho tutte le amiche contro a dirmi che non ha significato nulla e che non posso permettere a una scemenza di rovinarmi la vita, perché in pratica tanto varrebbe annullare il matrimonio. Ma se invece significasse tutto? E poi come si fa a cominciare una vita accanto a una persona basandola su una bugia? Pietrangelo, bugia o verità? Non si può rispondere. Io non riesco a rispondere. Impossibile. E quindi verità, tutta verità. Oltretutto questo è il mese in cui è inimmaginabile dire una sola bugia. Verità. E si doveva sposare? si tenesse quello di quella sera, si sposasse quello. Ti sei arrabbiato? Dai! Ti ha fatto arrabbiare sta cosa dell'addio al nubilato, sta sciocchezza. Insomma, se deve scrivere queste cose, sta signora, insomma, andasse altrove. Io invece ho una domanda. Una domanda che vale per tutti, soprattutto per quelli che ci stanno ascoltando, e mi piacerebbe ricevere anche una risposta alla nostra posta. Ma quando ci sposiamo, siamo sicuri di sapere perché ci stiamo sposando? Bella domanda. Mario, mi fai al volo l'ultimo a bolla del cupolone, di 0607 al cupolone. Allora, questo si chiama I Just Wanna Dance, è una richiesta specifica, la dedichiamo a un neo papà, a Fabio, che è diventato papà, e non dico altro, Just Wanna Dance è un suo brano questo. Senti? Ah, qui siamo alle dediche oramai, eh? Sì, anni 80, Radio Libera, senti qua. Va bene. Dai. Però, house music, che fa? Vabbè. E no, questa è bellissima. Perché ieri io non credevo veramente, assolutamente. Sì, non mi sembrava incredibile. Comunque, una nota di allegria va fatta per non finire nella disperazione. Il COPASIR, che vorrei dire a tutti i nostri ascoltatori, ha un compito enorme. Certo. È il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti. Si occuperà di che cosa? Dei tagliagole dell'ISIS? No! Del Medio Oriente in fiamme? Del Libano? No! Della Libia? No! Del caos tra la Russia? Accordiamo! Degli appalti di Roma! E così, miei cari, siamo giunti all'uso dell'arma di distrazione di massa. In fondo, non sta succedendo nulla nel mondo. Che cosa vuoi che sia occuparsi dei tagliagole dell'ISIS rispetto alla Spectre costruita da Buzzi e Carminati? Me lo fate dire con Battiato. Povera Italia. Sara, t'hanno scritto che cosa vogliono? Sì, che chi? Non serve sposarsi, tanto è la donna che determina tutto. Questo lo sapevamo. Non l'ho scritto io, giuro. Da Adamo ed Eva era noto. Marina, ma qual è la storia che raccontiamo oggi dopo il giornale radio? Ecco, la nostra storia torna a raccontare il mondo delle spie. Si tratta di un'operazione segretissima, nome in codice Gladio, che viene alla luce grazie alle indagini della magistratura dopo il crollo del muro di Berlino. Sono uomini e donne armati per organizzare la resistenza contro una possibile invasione dell'Unione Sovietica. L'ho detto, è un'operazione rimasta coperta per 40 anni, poi lo vedremo, si intreccia con le stragi, il caso Moro, insomma un giallo internazionale. Bene, interessantissima questa storia che sentiremo raccontata dopo il giornale radio, ma intanto, prima della pubblicità, L'amore si odia di Noemi con Fiorella Mannoia. Vieni qua, che ti dovevo dire tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, godere o finire. Vieni qua, sempre la stessa storia. Un equilibrio instabile, instabile, che crolla al vento di una nuova gloria. L'amore si odia.